ancora una volta è il discorso sull'eros, quello che mi interessa è il linguaggio dell'eros, cioè la combinazione poi immediata, quella ormonale chimica, invece lui sa che però, questo santo vabbè, però non riesce ancora a farlo. Voglio spezzare una lancia in difesa di Berardi, quando uno dice quando uno cerca di elaborare il concetto di ragione erotica, probabilmente cerca di mettere insieme sia linguaggio che corpo, no, non lo so, tu dici di no, eh? Cioè, so, a me il concetto di per me poi alla fine lui cioè, sa sfruttare poco quello che vorrebbe sfruttare, è vero, lui ha sfruttato sì ma e poi fa dei scivoloni politici sì, per cui sputtana anche quel poco di buono che magari dice, cioè riappacificarsi con le cose a me va benissimo, però perché già sono in pace, capito? No, ma infatti, lui invece cerca il recupero, poi da chi vuole essere recuperato? No, vuole fare la parte dell'eco cioè, dei poveri, lo facesse. Mi rendo conto che poi qua è un altro discorso, ma io sono fortemente contro Bolelli, cioè sono fortemente contrario alle teorie bolelliane, no, però mi scoccia che Bifo, che secondo me non è organico a lui, è anni che fa le cose con lui, insomma, infatti. Cioè il mio sogno segreto è quello di staccare Bifo da Bolelli, questo rimane qua, tanto sì, non lo scrivo. Sono anni che cerca di diventare sovversivo attraverso gli artisti, vabbè. Anche sì, se sì, poi no, Bolelli non lo è, ma lo so. No, ma Bolelli è tutto meno che un artista. Però insomma c'è un intreccio particolare. Va bene. Comunque, vorrei fare una battuta finale conclusiva su Bologna. Dunque, io sono arrivato qui, insomma, diciamo da fuori, dalla metropoli, che in questo caso vuol dire la provincia, da questo punto di vista, cioè Milano, che è provinciale, mi rendo conto appunto che ha delle cose, e come dire, insomma, mi sono fatto questa mia idea di come dire, Bologna, città in qualche modo magmatica, che però esprime delle cose. Allora, voi che invece ci vivete, insomma, sempre dal punto di vista, da questo punto di vista di questa cosa, io poi etichetto cyberpunk, ma ovviamente insomma, c'entra poco il cyberpunk in quanto tale. Comunque, voi com'è che ve la state... Come la vedete Bologna oggi, insomma? Guarda, è qualche cosa adesso che... Adesso non è che voglia fare delle battute, però io Bologna me la vivo veramente bene telematicamente. Poi quando incontro questi con due grassi di dito sul collo che pensano solo ai tortellini, vabbè, cioè parlando del bolognese terribile, così. Terribile, il bolognese medio. E in genere poi telematicamente... Non sono proprio bolognesi, in genere si tratta riformulo perché così viene meglio. Io quello che vorrei farvi dire, se avete voglia, perché a Bologna, cioè vuol dire come mai, secondo voi, se avete delle insomma spiegazioni, come mai Bologna oggi è in qualche modo la piazza più ricca da quel punto di vista, cioè quella che ha più spettro, lo spettro più ampio di cose sul terreno di questa zona qua, perché questo perché, è indubbio, perché? Forse perché ci sono le strutture per partorire, nel senso che a Bologna è facile esportare qualcosa, allora c'è anche secondo me la consapevolezza di unirsi delle volte, cioè le teste a Bologna si uniscono dal demenziale, non so, al telematico, per fare le cosiddette cose ed esportarlo, cioè da Bologna si esporta facilmente, io ho questa sensazione, però ecco, poiché faccio, no, non è per essere individualista, ma faccio categoria a me perché alla fine sono abbastanza isolata da certe cose, pur avendo, hai capito, agganci con i vari centri, cose, però pure tu hai diciamo girato per anni, poi ti sei fermata qua in qualche modo. Io mi destino, cioè non voglio dire adesso perché mi sono fermata, però non so, sono tornata a Roma qualche giorno fa e ho respirato un'aria diversa, molto più potente. Se vuoi più difficile, difficoltosa, proprio, cioè, ci sono delle difficoltà a Roma per chi si deve vedere dal centro sociale del Prenestino o del Testaccio, che sono veramente incommensurabili, enormi, eppure cioè, nell'incontro c'è veramente quel, come dire, c'è veramente l'incontro, cosa che io a Bologna non trovo, perché devi sempre mediare con quello che fai. Cioè attraverso quello che è il prodotto delle tue azioni, il frutto delle tue azioni vale più di te stesso, che magari hai bisogno semplicemente di comunicare, di parlare così. Ecco, quindi Bologna mi sembra un'officina, però ecco, non è è una via di mezzo tra lo sperimentalismo e il folklore. Basta, non dico niente. Ci sono due Bologne. due Bologne. Una è la Bologna provinciale, strangolata dai tortellini, stronza, con un razzismo diffuso a livello incontenibile, con un costo della vita allucinante, eccetera. C'è un'altra Bologna comunque, cioè, perché c'è un'altra Bologna assolutamente non provinciale, in una città dove il motore dell'economia locale, del lavoro sommerso, eccetera, è l'università, con decine di studenti fuori sede che arrivano da tutte le parti d'Italia. È fatale che tutti i linguaggi si scontrino producendo interzone. Ecco, allora, però, allora con te posso essere più provocatorio. A Milano la cosa è simile, cioè se tu guardi la professione studentesca milanese è simile a quella come bolognese, certo, simile. È più affogata perché la città è più grande, quindi però, sarà questo, non Milano, lo so. Cioè, Milano è stata per decenni una città industriale. Qui, cioè, vabbè, piccola industria, roba del genere, così, però te l'ho detto, il motore dell'economia qua è l'università, è il sapere. Sì, certo, invece, certo. A Milano l'università ha un suo ruolo importantissimo, le università, sì, però in qualche però, modo laterale, in qualche modo laterale, qui è proprio è il centro. Cioè, quindi voglio dire, insomma, tu dici Bologna, adesso la dico in termini giornalistici, quindi un po' sono riduttivi, però è più predisposta a diventare città post-industriale che non sì, Milano, insomma, perché Milano ha troppa storia industriale. Che, insomma, qua no? Cioè, il passaggio è già innescato con meno traumi possibile da parte di un potere locale che ti addormenta, in caso benessere, sì, okay, le cooperative, certo, cioè, certo. A Milano ci saranno dei traumi fortissimi, Madonna, con Formentini e tutto. Non c'è dubbio. No, forse perché a Bologna è anche più facile leggerla la complessità, è più facile individuare i vari particolari di questa complessità, credo insomma che sia più o meno così. Mi è venuta in mente un'altra roba e quindi ve la chiedo anche questa. Voi siete convinti che come dire, questo insieme di pratiche comunicative indotte o comunque che utilizzano la tecnologia telematica eccetera siano quelle in grado di, diciamo, di sciogliere i nodi del come dire, presente che va avanti? Cioè voi avete fatto questa scelta di immaginario tecnologico perché cos'è che vi ha spinto a questo? L'idea appunto di sciogliere la complessità, come dicevi tu prima, o di leggere la complessità, l'idea. Mi interesserebbe anche una cosa molto esistenziale, sì, molto... Cioè, secondo me le appendici valgono come appendici. Secondo me quello che conta poi è la consapevolezza di quello che stai facendo. In certi momenti puoi anche non avere la consapevolezza perché semplicemente c'è un montare di cose, non so, quando tu comunichi telematicamente con 20 persone contemporaneamente ti si complica anche un attimino il quadro della tua esistenza perché vengono fuori delle parti di te stessa che magari non ti aspettavi che insomma, si rivelassero così. Per cui non lo so, per me il fatto tecnologico si esprime non solo attraverso se stesso e quindi ti dà la possibilità di appropriarti di qualcosa che è diverso da te ma che può diventare parte di te stesso e nello stesso tempo cioè, può essere ma può essere un'amplificazione addirittura, cioè possono essere possibilità che tu acquisisci e che acquisisci così come acquisisci non so la potenzialità del ragionamento, non ti viene dal ragionamento stesso. Brava, bella questa risposta. Oh, per noi la tecnologia non è una scelta, cioè è proprio un ambiente, è un dato di fatto, è ormai è il nostro ecosistema. Cioè, riguardo alle tecnologie, cioè, non abbiamo un atteggiamento noi transmenici, né apocalittico né apologetico, siamo completamente disincantati riguardo a questo. Siamo cinici, opportunisti e bari. Va bene, bella, come cosa va bene. bellissima presentazione sui principi appunto della vita artificiale, un'applicazione di questi principi con alcuni modelli di esempi di modellizzazione. L'arte adesso, guarderemo per esempio un acquario elettronico di pesci. Oggi ascolteremo un signore che sostituisce il signor Pochilko, che ha avuto qualche problema. Problemi di vista, quindi Yuri è venuto al suo posto, al posto di Vladimir. Ci parlerà di questo programma artificial, è un fisico di Mosca, ha studiato all'Università di Mosca, facoltà di fisica e ingegneria, e ha creato questo pesce artificiale. È un pesce è stato creato in una joint venture di URSS, che mostra anche l'ambiente internazionale del mondo della vita artificiale. Ci andiamo a parlare adesso di questo pesce artificiale Elfish. Signore e signori, signor Presidente, prima di tutto mi scuso del mio inglese, anche se temo che se parlassi russo sarebbe ancora peggio, ancora meno comprensibile per la parte del pubblico. Siamo un po' in ritardo perché questo pesce, che essendo veramente un cittadino dell'Unione Sovietica, era tutto rosso prima. Poi però è diventato un po' verde e finalmente lo vedete sullo schermo, con un po' di verde. Vi parlerò di questo pesce elettronico, Elfish. Package per PC IBM, creata dall'Animatech in Russia e pronto per la pubblicazione da Maxis negli Stati Uniti. Il concetto originale di Elfish era stato proposto a Mosca da Vladimir Pakhelko, che è un psicologo e produttore di videogames, e da Alexei Vashnikov, che è anche lui molto noto come pediatra. Questo concetto è stato supportato dal Bulletproof Software BBS e un'equipe di una quindicina di programmatori si sono uniti per creare Elfish. Altri particolari di Elfish li troverete nello Scientific American, l'edizione del luglio 92, un articolo intitolato One Fish, Two Fish, si basa su una intervista con Pakhelko. Prima di continuare vorrei fare qualche nota sul concetto del pesce. Sapete che ci sono molte persone che possono apprezzare la bellezza estetica di cose belle pronte, e ci sono ben poche persone però che sanno come rendere belle le cose. Elfish dà al suo proprietario uno strumento pieno di know-how, uno strumento che dà al proprietario la possibilità di fare molte belle immagini, ma Elfish lascia al suo proprietario il diritto di essere giudice e di prendere le decisioni, e Elfish lo ammette senza paura. Quindi Elfish dà a molte persone la possibilità di diventare artisti, creatori di bellezza. Dato che Elfish è stato concepito per funzionare per molte persone diverse, deve poter funzionare sul hardware più popolare, non le workstation, non i supercomputer. Questa restrizione è importante, quindi l'Animatech ha dovuto sviluppare dei modi grafici speciali affinché Elfish potesse funzionare su dei VJ normali e su dei VJ super. Quindi quando date un'occhiata a Elfish, ricordatevi che funziona su personal computers, su PC, Magari il vostro, quello che avete a casa, a domicilio. Cominciamo. Dopo qualche schermo di introduzione abbiamo il menu principale. Qui vediamo tutti i rami di Elfish. La concezione del pesce per creare nuovi esempi di pesce, altri tipi di design per organizzare l'interno del... Allora, cominciamo e parliamo di inside, facciamo conto che l'abbiamo già descritta, che l'abbiamo già fatta.